9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci, Oscar Giannino torna qui dallo studio di Milano. L'argomento di oggi è il Partito del Sud. Cerchiamo di capire innanzitutto bene di che cosa si tratta, da coloro che hanno messo mano in queste settimane a immaginare come si potrebbe organizzare, in che tempi, in che modalità, se è un partito davvero, se è una corrente interna al Popolo della Libertà. Ecco, pur questo abbiamo chiesto ad alcuni protagonisti di questa vicenda di spiegarcelo. Io torno a dirvi, chiamate così gli rivolgerete direttamente le vostre domande all'800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666, oppure 9 in punto @radio24.it. E passiamo agli ospiti. Abbiamo con noi Gianfranco Micichè, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega al CIPE. Buongiorno Micichè. Buongiorno dottore, buongiorno. E Adriana Poli Bortone, che è senatrice del gruppo misto, non ha aderito pochi mesi fa al Popolo delle Libertà, nel senso che di Alleanza Nazionale, lo sapete, è stata sindaco di Lecce, è stato ministro per le risorse agricole ed è promotrice di un movimento, Io Sud, che in qualche misura guarda con attenzione a questa cosa. Buongiorno, buongiorno senatrice. Buongiorno a lei. Ecco, partiamo da Micichè, non conta che io le descriva quante sono state le reazioni, e a me interessa più che lei spieghi di che cosa si tratta allo stato attuale. Ma guardi, intanto quello che era interessante e importante fare, cioè quello che è stato fatto, era fare in qualche maniera sorgere il problema. Perché si era veramente dimenticato il fatto che l'Italia è lunga. E non si ferma a Roma, ma va oltre. Questo era stato dimenticato sia dal precedente governo Prodi che onestamente da questo governo di cui io faccio parte, per cui come dire, la voce interna al governo mi è sembrato opportuno utilizzarla, perché ha avuto sicuramente una maggiore possibilità di riuscita. È nato in Sicilia un movimento culturale importante che se vogliamo nasce già alcuni mesi fa, quando già gli industriali siciliani prendono una posizione molto chiara e molto netta per lo sviluppo e quindi contro la mafia, contro il pizzo e quant'altro. Nasce dentro la coscienza di tutta una serie di siciliani, ma non solo siciliani ovviamente, ma inizia, per quanto mi riguarda almeno, inizia qui in Sicilia, che si ribellano, ma non perché vogliono quattrini, non perché manchi l'assistenzialismo, ma esattamente il contrario, perché vogliamo essere autonomi. Il Sud non ne può più di assistenzialismo, il Sud non ne può più dell'elemosina, che almeno così appare sempre essere, dell'elemosina dei governi nazionali. Siamo una parte dell'Italia che è cresciuta, o che almeno stava crescendo molto, sicuramente oggi si è fermata, e si è fermata per colpa di quello che è successo negli ultimi 3-4 anni, ma che era fortemente cresciuta e che comincia ad avere delle esigenze di rappresentanza politica seria, che oggi purtroppo non c'è. Senta, ad Adriana Poli Bortone, lei come immagina invece dal suo osservatorio caratterizzato pugliese, un po' un movimento, questo tipo di movimento / formazione politica? Lo immagina indipendente dalla PDL, interna alla PDL, un'articolazione no, esterna che serve a dare più rappresentanza al Sud rispetto alla Lega al Nord? Come lo immagina? No, assolutamente non, certamente una corrente interna al PDL, perché in questo caso la cosa non mi interesserebbe assolutamente. Sarei rimasta all'interno del PDL se avessi notato che il PDL potesse fare una politica reale per il Mezzogiorno. Il problema è stato proprio questo, che in campagna elettorale lo scorso anno il PDL aveva una delle sue schede proprio sull'obiettivo Mezzogiorno, con elencato una serie di interventi che anche noi meridionali pensavamo che realmente potessero essere portati avanti. Tutto questo non solo non c'è stato, ma in un anno c'è stata una spoliazione vera e propria di quelle che pure sono le risorse del Mezzogiorno, risorse che competono ai territori meridionali per il fatto che sono delle zone in ritardo di sviluppo, così come l'Unione Europea ci ha ci ha catalogato purtroppo in base a parametri assolutamente oggettivi, che sono quelli della disoccupazione, della mancanza delle infrastrutture soprattutto. Quindi io mi immagino che il Popolo delle Libertà, che o per condizionamenti interni potrebbe essere una forte e determinante presenza della Lega Nord, una eccessiva presenza di ministri del Nord Italia, insomma una serie di motivi, il federalismo soltanto fiscale purtroppo, che è stato portato avanti per volontà esclusiva della Lega, per accordo politico con la Lega, una serie di concause che hanno portato ad una situazione veramente di emergenza per il Mezzogiorno d'Italia, ma non perché il Sud voglia elemosina, assistenza, interventi a pioggia, assolutamente. Noi vogliamo essere responsabili delle nostre scelte, ma per essere responsabili dobbiamo anche essere responsabili della gestione delle risorse, e tutto questo oggi con questo governo non avviene. Quindi io mi immagino che ci sia da un lato una serie di movimenti, una confederazione di movimenti che si mettano insieme e che non rimangano più delle monadi come è accaduto purtroppo in tutti questi anni, ma che rappresentino un insieme di base che sappia organizzare un progetto territoriale, e dall'altra penso che ci possano essere opportunamente dei gruppi parlamentari di meridionali o comunque i parlamentari che hanno a cuore gli interessi del Mezzogiorno, che in fin dei conti è una questione di rilievo nazionale, non certamente soltanto di rilievo territoriale, e questi parlamentari con determinazione, così come fanno correttamente e giustamente in termini politici gli amici della Lega, possano portare avanti questi deputati, quelle che sono le istanze del Mezzogiorno, che sono quelle per esempio di una priorità in termini di perequazione infrastrutturale. Come si fa oggi a parlare di federalismo se noi ancora nel sud non abbiamo neanche delle infrastrutture, penso alle infrastrutture trasportistiche che sono assolutamente assenti in alcune zone del Mezzogiorno d'Italia, eppure noi vorremmo decollare attraverso il turismo in particolare. Quindi due cose in contemporanea: movimenti di base che si mettano insieme e dall'altro una rappresentanza al massimo livello nelle aule parlamentari. Iniziamo con gli ascoltatori. Abbiamo Mauro da Vicenza. Io devo chiamare tutti gli ascoltatori, come sempre quando si tratta di toni e di temi che hanno a che fare con il nord e il sud e la convivenza e l'unità nazionale, di quanto più si hanno le idee chiare, tanto più di usare un linguaggio rispettoso per tutti. Mauro da Vicenza, prego. Buongiorno, volevo solamente sottolineare e dire quella che è la mia idea. Secondo me invece questo, io dico il contrario di quello che hanno detto i due signori, e cioè questo è un monito da parte del Lombardo, governatore di Loiero, di chi più ne ha più ne metta, a dire attenzione, tutti questi voti che noi vi diamo, non fate cambiare le cose così come stanno, lasciatele così. Cioè con una valanga di miliardi che arrivano costantemente, con l'assistenzialismo, perché loro con le loro gambe non sono capaci di andare avanti. Dietro alla Lega Sud sicuramente ci sarà cosa? La mafia, sicuramente al 100% cercherà di influenzare questo movimento. Quindi io la penso così, secondo me è solo un monito di attenzione, tutti i voti che voi avete da noi li perderete se farete efficienza, se creerete efficienza, come invece sta avvenendo nelle altre regioni. Grazie Mauro da Vicenza. E Michiché, come vede, appena uno apre il microfono, dal nord arrivano anche reazioni di questo tipo. Dottor Giannino, evito di rispondere. No, certo, sì, figurati, ma io lo sapevo da prima. Detto questo, io naturalmente rispettiamo tutti, purché però la certezza della mafia, insomma, ecco, ci andrei un po' piano, a dire la verità. Il punto, no, vede, posso dire, al di là di questa sciocchezza della mafia, che ovviamente è una sciocchezza, io vorrei ricordare a tutti i telespettatori, a tutti i radioascoltatori, che a me per primo, che la mafia in Sicilia era molto ma molto forte, Oggi lo è sicuramente di meno e non è venuta né la NATO né le ronde leghiste a toglierci questo problema. No, ma evitiamo la polemica. Guardi, oggi noi non parliamo di mafia, la mafia è un problema serio, ma non è questo il punto di oggi, ce ne occuperemo ovviamente. Detto questo, quello che non appare molto chiaro, mi riferisco per esempio, oggi c'è un intervento sul Sole 24 Ore di Antonio Polito, il direttore del Riformista, che risponde a degli editoriali del Sole e dice al Sud non serve Masaniello, perché il punto è, dice Polito, io capisco che il Nord abbia avuto una rappresentanza dal basso sempre più forte della Lega, ma lì si chiedeva di economizzare, diciamo così, le risorse pubbliche che vengono drenate dal Nord e portate altrove. Un'espressione del Sud temo che potrebbe diventare un partito che chiede più spesa pubblica, e non so se chiedere più spesa pubblica sia giusto. Ecco, messa così, lei come risponde? No, non è proprio così. A me dispiace che ancora si continui a pensarla in questa maniera. È esattamente il contrario, dottor Giannino, è esattamente il contrario. Se noi abbiamo oggi, non siamo più quelli che eravamo nel dopoguerra, oggi il livello di disoccupazione nel sud è oggettivamente gestibile, non è più quello del 25% che c'era una volta. Oggi abbiamo in tutto il sud importanti centri di eccellenza, stanno crescendo le imprese, stanno prendendo coscienza tutti. Noi vogliamo essere autonomi, cioè vogliamo poter camminare con le nostre gambe. Ora, quando però ci troviamo di fronte a una situazione per cui il governo, prima quello di Prodi, oggi questo, convinti del fatto che i soldi tanto li spendiamo male, non ce li danno più, allora la situazione veramente rischia di degenerare. Noi abbiamo una serie di esempi come erano stati spesi i soldi dell'ultima Agenda 2000 e quindi i famosi FAS dell'ultimo periodo, che è straordinario, ma veramente un'elencazione di cose fatte straordinarie, di strade, di porti, di centri di ricerca, di ospedali, ma realmente importante. Ora, quando nel pieno della crescita vi siamo fermati, veniamo bloccati dall'atteggiamento di Tremonti o di qualcun altro, perché io continuo a sostenere che l'anomalia vera in tutta questa vicenda è la presenza di Tremonti. Purtroppo non c'è niente da fare, persona bravissima che io stimo, ma che certamente, come dire, ha una visione del sud assolutamente sbagliata, assolutamente parziale. Voglio dire, quando, cioè, lei dice che non lo conosce abbastanza, perché c'è chi sostiene che Tremonti ha questa idea perché lo conosce troppo bene invece il sud. Lei no, ma è assolutamente no, Giannino, perché basterebbe venire un po' in giro per il sud e vedere le autostrade che sono state fatte, il centro trapianti di Palermo che è considerato il migliore d'Europa, questo centro ricerca importantissimo che si sta facendo, quello che è stato fatto in Puglia. Per carità, poi ci sono delle zone che sono ancora fortemente difficili, ci sono delle zone in Calabria e nel Napoletano, per carità anche in Sicilia, che sono zone che resistono allo sviluppo, che resistono alla crescita, ma oggi c'è una coscienza e una classe dirigente veramente diversa da quella di prima, ma realmente diversa da quella di prima, per cui questo è incomprensibile, come un governo che dovrebbe avere come unico obiettivo quello della crescita, di fare crescere tutto il territorio, improvvisamente abbia frenato in maniera così violenta rispetto al sud, che invece era assolutamente in crescita negli ultimi anni. Senta, senatrice Poli Bortone, oggi c'è sulla stampa un'intervista del ministro della difesa Ignazio La Russa, che è anche uno dei tre coordinatori della PDL, molto dura contro l'ipotesi di un partito del sud, e dice in buona sostanza: se il problema è quello di tenere con noi la Lega senza farne accentuare le richieste pronordiste, allora ciò che bisogna evitare è innanzitutto quello di farla inquietare, perché altrimenti si tiene l'effetto opposto. E poi dice: se c'è un problema nella PDL è un problema organizzativo, ma problemi organizzativi di quel tipo, cioè dare più rappresentanza alle voci interne e così via, si risponde con riforme organizzative, non con nuove formazioni. E queste due argomentazioni lei come replica, senatrice? Ma guardi, io credo che il ministro La Russa viva a Milano da troppo tempo. e abbia degli interessi che sono probabilmente legati soltanto a quel territorio, nonostante il suo accento così siciliano. È certamente una persona che del sud fino a questo momento non si è assolutamente interessata con i fatti. Il fatto che ci siano troppi interventi da parte di ministri di questo governo, i quali sostengono che oggi non ci sia bisogno di un partito del sud, mi inquieta molto, perché significa che hanno una forte preoccupazione, perché sanno perfettamente di avere fatto fino ad oggi delle opere, delle azioni che sono assolutamente contrarie a quelli che sono gli interessi del Mezzogiorno d'Italia e dunque della nazione, perché la questione meridionale, l'antica questione meridionale, è sempre stata interpretata, almeno in termini teorici, come questione nazionale. Io ne sono tuttora convinta, cioè se oggi, nel momento in cui vogliamo affrontare in maniera seria e responsabile il tema del federalismo, pensiamo di attuare una secessione dolce e quindi di creare di fatto una macro regione del nord, abbandonando a se stesso il Mezzogiorno d'Italia, credo che non facciamo un'opera buona nei riguardi della nazione, valore nel quale io continuo regolarmente a credere. Allora penso che sia invece necessario che ci sia una rappresentanza vera in termini politici del Sud. Vede, io sentivo male perché sono in macchina e quindi non sono riuscita a cogliere tutte quante le cose che sono state dette, ma sentivo parlare come al solito della mafia, della camorra. Diciamo che è diventato quasi un alibi quello di parlare del Mezzogiorno identificandolo esclusivamente con la mafia e la camorra. Mi farebbe piacere riferirmi semmai ai tanti meridionali che sono andati nel nord Italia e che hanno invece procurato ricchezza nel nord Italia. Tutto questo noi possiamo farlo nel Mezzogiorno, purché ci siano lasciate quelle risorse che sono proprie del nostro Mezzogiorno. È una cosa che io non riesco a comprendere: un governo nazionale che attraverso qualche ministro interessato continua a dirci che non c'è bisogno del partito del Sud, non capisco il motivo per il quale, di fronte ad una palese inefficienza talune volte di alcuni presidenti di regione, i quali pure hanno le responsabilità in termini di gestione, di promozione del territorio e quindi di utilizzo delle risorse, in assenza di un utilizzo rapido, corretto, efficace ed efficiente delle risorse stesse, non capisco perché un governo, invece di sottrarre, come sta facendo, fondi al Mezzogiorno per dirottarli al Nord, non commissari esclusivamente per l'utilizzo di questi fondi le regioni che sono inadempienti. Ma di cosa si è fatto con i rifiuti? Certo. Perché non individuare dei commissari ad acta per la gestione dei fondi comunitari o delle risorse destinate al Mezzogiorno? Credo che sarebbe un elemento così di intervento decisamente facile, perché non toglieremo risorse al territorio meridionale, le lasceremmo lì per fare le infrastrutture soprattutto, e comunque quelle opere che occorrono per fare decollare quest'area dell'Italia, che è importante, che è strategica nell'ambito dell'area del Mediterraneo. Non possiamo sentir dire che a Milano si parla di Mediterraneo e non se ne parla giù in Puglia, o si sottraggono le risorse per dirottarle a Milano perché Milano parli del Mediterraneo. Insomma, mi pare che sia veramente... La interrompo un secondo, torniamo alla voce degli ascoltatori. Io ho l'obbligo di avvisare Micichè e Poli Bortone che il 99% delle raffiche di SMS che stiamo raccogliendo sono molto critici, sono di ascoltatori del nord, ne leggo alcuno a caso, sono sempre elencate realizzazioni del sud non connesse a produzione di reddito ma solo a costi fissi mobilizzati, quindi come vedete c'è una grande attenzione alla logica economica degli interventi. Il sud spende più del 115% della ricchezza che è in grado di produrre, sono tutti trasferimenti legati all'intermediazione politica e così via, quindi obiezioni molto forti. Sentiamo cosa ci dice Francesco da Milano. Buongiorno Giannino, la saluto con stima e affetto. Prego. Io in realtà sono napoletano, abito a Milano da alcuni anni. Penso che la creazione di un partito del Sud sostanzialmente dia ragione alla Lega, che da anni dice che il vero dibattito politico in Italia non è fra centrodestra e centrosinistra, ma è fra nord e sud. creando un partito del Sud si polarizza questa posizione, si dà consenso alla Lega al Nord, creando secondo me dei seri problemi per quanto riguarda l'unità nazionale. Poi, essendo napoletano ed essendo militante leghista da alcuni anni, sono ben contento di questo, intendiamoci. Però secondo me è una riflessione che Micichè e gli altri e i suoi colleghi dovrebbero fare, molto profonda. Benissimo, grazie. La ringrazio. Francesco, abbiamo Giacomo da Pistoia. Prego Giacomo. Buongiorno a tutti. Io volevo partire a parlare su un'altra prospettiva, ovvero vorrei mettere da parte il problema economico degli investimenti e vorrei mettere al centro la dignità del popolo del Sud. Sono rimasto molto deluso perché di questo non se ne parla. Quello che la Lega Nord ha fatto in questi anni, io ora sono toscano, quindi sono rimasto fuori da queste diatribe Nord e Sud. La Lega Nord ha preso come simbolo Alberto da Giussano, che è un personaggio storico molto controverso, avversario del Barbarossa, e comunque simboleggia qualcosa che nel XII secolo furono i comuni. Io ora mi rimango, diciamo, sbalordito che dal Sud l'unica voce che sento nei mass media, che siano giornali, le televisioni, che cerca di dare una dignità al Sud, al popolo del Sud, a quello siciliano soprattutto, so che c'è, mi ci sei che è siciliano lì in trasmissione. E ho sentito solamente in questi anni Pietrangelo Buttafuoco, che riesce a cercare di vedere il Sud non solo come un mero problema italiano, ma come una grande risorsa culturale. Quello che manca, io credo, ai meridionali non sia tanto il denaro, gli investimenti, le infrastrutture, ma una dignità che è stata tolta. Io la ringrazio, è un po' singolare che lei identifichi una voce di straordinaria intelligenza ma molto eriticale come Pietrangelo Buttafuoco come la voce di un riscatto del Sud. Lo dico, sono amico di Pietrangelo, ma ne conosco anche bene il percorso intellettuale fatto di collassi, di paradossi, per così dire. Però detto questo, capisco che dal suo punto di vista, Giacomo, evidentemente la battaglia per dare più dignità e più rappresentanza al Sud non deve essere tanto sbagliata. Eccoci tornati qua in studio, l'argomento è il Partito del Sud, serve o non serve, serve a riequilibrare che cosa? Ecco, io prima di tornare ai nostri ospiti saluto il professor Luca Ricolfi che si è collegato con noi. Buongiorno Ricolfi. Buongiorno. Ecco Ricolfi, lo sanno molto bene i lettori della Stampa, ma insomma è diventato anche un protagonista del dibattito nazionale, ha una caratteristica rispetto a molti osservatori, siccome insegna metodologia di ricerca psicosociale all'Università di Torino, ha insegnato un pochino in questi anni al dibattito italiano a rimettere i piedi per terra con dei numeri condivisi. Lo dico per esperienza di economista e di giornalista economico, è diventato un paese in cui i linguaggi quantitativi per descrivere la realtà non sono più condivisi, e un paese che smarrisce questa prospettiva si condanna a essere un paese che non ha più una lingua in comune per identificare i fenomeni. Grazie a questo chiedo a Ricolfi, dal suo punto di vista, quanto conta in questo dibattito che stiamo facendo il fatto che in questa legislatura proprio il centrodestra abbia posto il riequilibrio dei costi e delle risorse a fronte dei costi della macchina pubblica, il cosiddetto federalismo fiscale, al centro della riflessione, al termine della quale bisognerà riequilibrare le risorse e i costi secondo standard comuni di servizio. Molti dicono, facendo così, a seconda che si identifichi un costo standard di qualità di servizio più efficiente, inevitabilmente si andrà verso medie molto più vicine a quelle, per esempio, della Lombardia o del Veneto, in settori come la sanità, che è per esempio il 70% delle competenze regionali, e quindi a quel punto il Sud, lontano da quelle medie, sentendosi parecchio minacciato nell'attribuzione e nella gestione diretta di proprie risorse dovute per autonomia, a quel punto inizia a reagire. La vede come una lettura un po' troppo tecnica o può contare questo fatto secondo lei? Ma più che troppo tecnica, io la vedo come una lettura troppo ottimistica, perché questa che lei ha esposto adesso è esattamente la filosofia del federalismo. Però la deriva del federalismo molto difficilmente sarà questa, perché c'è una legge estremamente intricata e confusa che non prevede effettivamente questo percorso, a mio parere. E poi c'è un problema di cui il centrodestra, il governo è perfettamente consapevole, cioè che manca una base di dati condivisa, cioè ancora oggi, dopo 10 anni che si parla di federalismo, noi non abbiamo dei conti che ci permettano di definire un percorso condiviso per i prossimi anni. Quindi io sono molto pessimista, penso che il federalismo porterà semplicemente a un lento aumento della spesa, però spero naturalmente di sbagliarmi. Oh, e quanto a quello che hanno ripetuto sia Poli Bortoni che Micciché, poi torneremo a sentirli, sul fatto cioè che uno dei criteri di finanziamento utilizzato da questo governo di fronte alla crisi, poiché il finanziamento a cui si ricorre non è nuovo deficit di cassa, ma è riallocazione di spesa di competenza, è fatto soprattutto pescando dal FAS, quindi dai fondi per le aree, e molte delle quali a quel punto significa meno denari per il Sud. È comunque un aspetto un po' innegabile di come sta procedendo questo governo, o no? Lei che dice? Ma temo di sì, mi pare che questo finora sia avvenuto, però stiamo sempre parlando di piccole cifre di bilancio che sono state spostate, cioè qui dipende da come si fanno i conti, ma da quando il governo è insediato sono stati spostati alcuni miliardi di euro. Quando si parla invece di riforma federalista, i miliardi di euro che dovrebbero essere spostati per mettere le cose a regime sono molte decine. Io do solo una piccola idea con alcune cifre. Noi, tolta la spesa pensionistica, in Italia abbiamo circa 500 miliardi all'anno di spesa pubblica corrente. Di questi 500 miliardi, almeno 80 sono dissipati, nel senso che sono... potrebbero non essere spesi se le regioni meno efficienti prendessero come modello, non dico la più efficiente, ma le 3-4 più efficienti, ed è una bella botta. Poi c'è l'evasione fiscale, noi abbiamo un'evasione fiscale sui 120 miliardi di euro, ma la cosa più interessante è la distribuzione territoriale, cioè l'evasione fiscale è molto differenziata, noi abbiamo alcune regioni del nord e del centro con un'evasione fiscale che gli economisti definirebbero frizionale, nel senso che è fisiologica, non può essere compressa ulteriormente. Ma poi abbiamo delle regioni come ad esempio la Calabria che ha un'intensità di evasione fiscale quasi del 100%, che vuol dire che per 100 di imposta pagata ce ne sono 100 di imposta evasa. Allora, se non si interviene su queste strutture, io non vedo come il federalismo possa dare dei risultati apprezzabili. E quindi molto probabilmente questi punti aperti sono tra le inquietudini intorno a cui insiste questo dibattito di cui ci occupiamo oggi. Sì, Simone da Parigi, sentiamolo, che ci dice Simone? Sì, buongiorno Oscar. Intanto volevo chiedere un chiarimento sulla posizione di Micciché e della Poli Bortone, perché il primo mi sembra che abbia detto che il Sud non vuole più l'elemosina o presunta elemosina che il Nord o comunque insomma il governo centrale gli riconosce o gli ha riconosciuto nei decenni passati. L'altra parlava di commissariamenti e di figure che insomma sanno un po' del ministeriale più classico della Prima Repubblica. Quindi secondo me intanto chi vuole fare, chi intende proporre un partito del Sud deve mettersi d'accordo. Poi il partito del Sud avrebbe un senso se le regioni del Sud e in particolare quelle che hanno lo statuto speciale, cioè per esempio la Sicilia, ma anche la stessa Puglia, quindi le due regioni rappresentate dagli ospiti, si impegnassero seriamente a valorizzare almeno una delle loro ricchezze naturali che è il turismo. Leggiamo stamattina che i turisti giapponesi se ne stanno scappando da Roma perché si beccano delle fregature. La stessa cosa succede a migliaia di altre persone, non solo straniere ma anche italiane, che arrivano in Sicilia e non trovano assolutamente strutture di fianco a centri di interesse architettonico come per esempio la Valle dei Templi, che sono lasciate così al degrado e non sono valorizzate. Non faccio un discorso da settentrionale, ma da un italiano che vive all'estero e che quindi quando parla dell'Italia intera. Per cui non è proprio mio interesse quello di dire che quelli del Sud non ce la fanno, non vogliono fare qualcosa, non intendo. Ma dico semplicemente, le risorse ci sono, bisogna agire, bisogna assolutamente utilizzare tutto quello che è a loro disposizione già adesso per creare posti di lavoro, magari proprio nel turismo, attirare gente anche dal punto di vista delle imprese e sfruttare una posizione strategica sul Mediterraneo. Poli Bortone parlava di Milano che non va bene come centro per la segreteria economica dell'Unione per il Mediterraneo. Non lo so, se c'è un'alternativa vera, certo non può esserci però un'altra città come tante del sud purtroppo che non hanno tutta una rete di servizi che serve per far funzionare delle istituzioni nazionali o chiarissimo, internazionali. La devo interrompere perché il tempo è tiranno. Torniamo a sentire Miciche e poi Poli Bortone. Miciche, su questo punto di riequilibrio delle risorse, le risorse non bastano e bisogna che al sud ne arrivino di più oppure bisogna ridiscutere col federalismo come si utilizzano, il sud deve contare di più nel governo, nella maggioranza, perché non siano solo i criteri preferiti dal nord di standard di efficienza a prevalere? Ci faccia capire quale di queste due questioni, magari tutte e due pesano? Allora, io vorrei dire una cosa, secondo me c'è una visione del sud veramente molto molto sbagliata. Nel 2005 il Fondo Monetario Internazionale nella sua relazione sui vari paesi e quello sull'Italia scrive, se non ricordo male, non ce l'ho davanti, scrive che l'accumulazione di capitale, che è l'elemento essenziale per lo sviluppo, per la prima volta dal dopoguerra è favorevole al sud. Lo scrive nel 2005. Io ricordo ancora che la disoccupazione in Sicilia 10 anni fa era superiore al 20%, oggi rischia di arrivare, speriamo, a una cifra, quindi di scendere sotto il 10%, e nel Mezzogiorno più o meno è comunque attestata a livelli, oserei dire, quasi europei. E i fondi strutturali che fino a 10 anni fa non si spendevano, tanto che ricorderete tutti i titoli di giornali, persi soldi europei, io non posso dimenticare il dispiacere che avemmo ai tempi noi palermitani quando un'importante cifra che era stata assegnata dall'Europa per rifare il centro storico di Palermo venne persa e finì a Lisbona. Bene, oggi è totalmente diverso. Noi abbiamo non solo utilizzato tutti i fondi strutturali, ma la signora Danuta Hübner, commissaria europea per i fondi strutturali, 3 anni fa è venuta in Italia a dire che l'Italia era diventata un esempio, un modello da imitare. E Le Figaro, in un numero di un paio di anni fa, scrive, io il francese purtroppo non lo so bene, per cui ve lo dico in italiano, Mezzogiorno, da fanalino di coda a prima della classe. Cioè, mi sembra di capire che c'è veramente una visione distorta del Mezzogiorno e del Sud. Certo, se noi guardiamo la fotografia del Mezzogiorno, è chiaramente una fotografia in bianco e nero e sfocata, ma se noi guardiamo il film sul Mezzogiorno, quello che era 10 anni fa, oggi è veramente dimenticato, per cui c'è... Si stanno facendo degli sforzi che io vi prego di credermi veramente importanti. Poi che ci sia il presidente della regione che ruba, il deputato che non so che, eccetera, tutto quello che volete, c'è sempre stato, ce n'è per fortuna sempre di meno, ma ci saranno sempre in Sicilia come in tutte le regioni d'Italia. Ma che ci sia stato oggettivamente uno sforzo importante della classe dirigente meridionale per superare questo modo di essere è altrettanto vero. Quando io sento oggi i miei colleghi di partito che sostengono che il Partito del Sud nascerebbe perché alcuni politici hanno legittimamente desiderio di riciclarsi, io vorrei dire che ho poco da riciclarmi, sono al governo Berlusconi, sono uno dei pochissimi ad aver fatto parte di tutti i governi Berlusconi, per cui e probabilmente potrei continuare a fare parte, ed è esattamente il contrario. Se io faccio questo partito ovviamente mi dimetto dal governo Berlusconi, per cui è esattamente il contrario. Eccoci tornati qua in studio. Io avevo interrotto per un secondo Gianfranco Miciche, che ci stava raccontando come con l'utilizzo dei fondi di coesione, per esempio, con molto più impegno da parte dei politici, è tutto migliorato. Assolutamente sì. Ora, in tutta questa vicenda ha perfettamente ragione il professore Ricolfi quando parla di standard di efficienza. Io vorrei dire, siccome sono uno che mi metto lì finché non trovo le soluzioni e non abbandono mai il problema, tra le varie cose che ho voluto analizzare in quest'ultimo periodo sulla sanità c'è per esempio il costo del 118. Ora, in Sicilia il 118 ha un costo di 105 milioni di euro, in Piemonte, o non so dove, insomma di 70, più o meno a parità di cittadini. Quindi sembrerebbe così a prima vista che c'è uno spreco di circa 30 milioni. Ora però la legge istitutiva del 118 dice che le ambulanze devono arrivare nel luogo dell'incidente in città entro 8 minuti, fuori dalla città entro 20 minuti. Io vorrei ricordare a tutti che la Padania è piatta. Un'ambulanza si mette in autostrada e in un quarto d'ora fa 30-40 chilometri. La Sicilia è tutta montagne, è tutta tornanti. Quindi quello che è necessario in Sicilia non è necessario in Piemonte. Per cui in Sicilia ci sono 40 o non so quanto, addirittura 100 punti di 118 in più rispetto a quelli del Piemonte. Però la verità qual è? Che ogni singola stazione di 118 in Sicilia costa il 20% in meno che in Piemonte. Allora qual è lo standard da utilizzare? Il costo per singola postazione di 118 o il costo complessivo del 118? La legge, il federalismo fiscale in questo momento ti fa capire che è il costo complessivo. Ma il costo complessivo è chiaro che la Sicilia ce l'ha più alto perché è morfologicamente diverso. Allora insomma ci sono tutta una serie di situazioni che una presenza più forte nella politica, una rappresentanza più forte nella politica nazionale ci consentirebbe di poter sistemare, di poter aggiustare. Una rappresentanza inesistente come quella attuale è inesistente. Perché? È inesistente perché la Lega è un partito e io sono un deputato. La verità è questa, cioè che quando un partito impone una scelta, un governo, il partito è nelle condizioni di imporre, perché se no non vota la fiducia. Il singolo parlamentare o il singolo, cioè, i 10 o i 20 singoli parlamentari questa forza non ce l'hanno. Quando si va in commissione bilancio, se ci sono delle istanze che provengono da Roma in giù, i rappresentanti del Ministero dell'Economia ti guardano con odio, mentre se l'istanza scatta la comprensione, da Varese, sei del nord, da Varese, o non so da dove. Mi dice che la interrompo un secondo perché girando la palla ad Adriana Polibortone io le pongo una questione. Voi dovete inevitabilmente capire la stragrandissima maggioranza degli ascoltatori, ma degli elettori del nord, e questo secondo me riguarda gli elettori poi del centro-destra e del centro-sinistra, ritengono che i dati comparati di decenni e decenni di trasferimenti pubblici al sud, nei diversi modelli che si sono susseguiti, nel trasferimento dell'intervento straordinario, la cassa per il mezzogiorno, gli enti finalizzati al sud e così via, poi è finita quell'era, abbiamo avuto 15 anni delle politiche di coesione fatte guardando in teoria a far sorgere dal basso una migliore capacità di spesa, poi è finita anche questa, l'ultima epoca degli ultimi 15 anni, le politiche di coesione animate da Ciampi, seguite anche con il centrodestra, perché Micichè si riferisce esattamente a cose di politiche di coesione, a sostegno di capacità di miglior spesa e miglior classe dirigente del sud, fatte anche dal centrodestra. Però finita anche quell'epoca, agli elettori arriva l'impressione che possiamo avere il trasferimento di reddito secco centralizzato, cassa al mezzogiorno, possiamo avere una capacità di spesa più qualificata dal basso, ma l'effetto è che i gap non si sono sanati malgrado tutte le risorse trasferite. E quindi la gente del nord dice, ma non è che qui semplicemente si torna a volerci descrivere un sud diverso da quello che è. Ecco, che risponde a questo tipo di preoccupazione, Polibortone? Ma guardi, io trovo che sia una lettura decisamente parziale del fenomeno, in qualche modo anche faziosa e ricca anche di retorica, nel senso che, come diceva Micichè, ci troviamo in una fase strana, un momento in cui la classe dirigente, non solo la classe politica, ma la classe dirigente più in generale del Mezzogiorno d'Italia è qualitativamente anche migliorata, tende a creare delle situazioni di sviluppo reale e stabile sul territorio, così come vuole l'Unione Europea con tutti quanti i suoi input estremamente positivi, e nello stesso tempo proprio oggi che siamo in una fase che potrebbe essere una fase propulsiva realmente per il Mezzogiorno, oggi il governo, un governo di centrodestra, stacca la spina e, pur avendo in teoria stabilito che ancora, proprio per le politiche di coesione e di convergenza, per il Mezzogiorno d'Italia occorrerebbe avere un 85% di risorse da destinare in termini di fondi per le aree sottosviluppate, un 15% per il nord, proprio in questo momento si dirottano fino ad oggi in un anno ben 22 miliardi di quelle risorse nel nord Italia. È veramente un non senso. Ora, tutti quanti noi meridionali ricordiamo bene la Cassa del Mezzogiorno e non pensi che noi non siamo critici nei riguardi della gestione di certe situazioni per il Mezzogiorno. Ma vorrei ricordare che tanti provvedimenti che sono stati fatti nel tempo per il Mezzogiorno d'Italia di fatto sono stati fatti a favore dell'industria del nord, perché tutte quante le agevolazioni fiscali che erano fatte nel Mezzogiorno di fatto sono state fruite proprio dalle grandi aziende del nord, che venivano giù, usufruivano per il tempo stabilito delle agevolazioni fiscali, mettevano su una grande industria, dopodiché contrattavano con i sindacati un certo numero di lavoratori, non arrivavano a quel numero, finite la fiscalità di vantaggio e cominciavamo con la solita solfa della cassa integrazione, la mobilità e quindi il licenziamento. Quindi lei dice in realtà poi di politiche per uno sviluppo autoportante del sud puntate sulle eccellenze del sud, se sono viste poche. Il tessuto economico del Mezzogiorno d'Italia è fatto essenzialmente da piccole e medie imprese. Quando noi abbiamo avuto questi grossissimi insediamenti industriali, li abbiamo avuti a costi altissimi, ma altissimi non soltanto finanziariamente, ma anche per esempio in termini di salute. Taranto, che è una splendida città sul mare, altro che turismo, Taranto è stata devastata da insediamenti industriali che si hanno portato indubbiamente per un certo periodo di tempo di posti di lavoro, hanno portato però un tasso di inquinamento talmente alto che oggi pensare ad una forma reale di riconversione industriale su Taranto è indubbiamente una bella impresa ed una bella sfida sulla quale noi meridionali e noi pugliesi ci vogliamo misurare. Grazie, un secondo la devo interrompere perché un'altra domanda che viene da molti ascoltatori che adesso dovrò ringraziare perché purtroppo non abbiamo tempo, perché volevo fare un'ultima domanda invece a Ricolfi e così ringrazio Salvatore da Napoli, Giuseppe da Palermo e Paolo da Milano che non avremo tempo di sentire. Ricolfi, se dovesse formulare un'opinione tra una forte rappresentanza territoriale che serve a riequilibrare e dare dialettica in sistemi istituzionali a più livelli, penso per esempio alla CSU nel sud della Germania, in Baviera rispetto alla CDU, oppure a fenomeni di frazionismo che diventano prima frizionali ma poi esasperati, al Belgio che non riesce a risolvere in maniera crescente da anni il problema tra fiamminghi, valloni. Lei come immagina che si svilupperà a breve questo federalismo italiano e anche quindi questa espressione del sud rispetto alla Lega? Ma io penso che ci siano sostanzialmente due scenari. Se Tremonti e Berlusconi dovessero fare sul serio, cioè fare il federalismo nel disegno delle origini, con quindi un trasferimento secco di risorse da sud a nord, penso che sarebbe inevitabile la nascita di un qualcosa di somigliante alla Lega del Sud. Se viceversa, come ritengo più probabile, il federalismo non si farà sul serio, ma ci sarà un leggero aumento di spesa, penso che questi movimenti di questo periodo potrebbero trasformarsi semplicemente in una lobby degli interessi del Sud dentro il PD, dentro il PDL, dentro i partiti, che cercherà di limitare i danni. Questo mi sembra lo scenario più probabile. Senta, Michiché, ma quanto siete trasversali guardando anche a sinistra? Perché questo dai giornali si è capito o non si è capito? Ma io a me non mi interessa nulla la trasversalità. Io dico che noi abbiamo degli interessi e chi ci vuole stare ci sta, cioè, non abbiamo ragione l'intervento di quel ragazzo di poco fa che diceva il napoletano che vive a Milano ed è leghista, e oggi il dibattito forte non è più centrodestra centrosinistra, il dibattito è sugli interessi di territorio, e abbiamo provato a farlo anche oggi. Io ringrazio Michiché, dovevo dirvi che abbiamo un'insurrezione di ascoltatori che ci ricordano che il Piemonte non è certo piatto e così via, e quindi è successo ciò. Io vi avrò preso a schiaffi dagli ascoltatori di Radio 24 maggioritari del Nord, ma abbiamo voluto dare voce e parlare insieme a loro a questi animatori di una tendenza che vedrete non finisce, non è una pura cosa. Le logiche federaliste, quando le si imbocca, vanno sia di qua che di là, quindi bisognerà parlarne più a fondo. Io vi ringrazio e ringrazio Gloria Guerrera e Laura Faggin, ne ringrazio un po' meno perché non mi hanno messo chi c'è in regia oggi, mi arrabbio molto su queste cose. Do la linea al giornale radio e vi ricordo che chi volesse approfondire anche i miei interventi eccetera li trova a www.chicago-blog.it. A domani.